administrative a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati alla finestra sul cortile, il nostro appuntamento settimanale con le pagine culturali dei giornali stranieri. Si riaprono le scuole e con l'inizio delle lezioni tornano gli interrogativi e i dubbi di sempre, resi più stringenti e più drammatici dalla grande crisi. Serve davvero studiare? Cosa è meglio studiare? Che cosa faranno da grandi i nostri ragazzi? Invece di puntare alle professioni intellettuali, avvocato, giornalista o professore, o al mondo della comunicazione o della pubblicità, che oggi forse è il più in crisi di tutti, non sarebbe ora di riscoprire i mestieri, l'artigianato, andare a bottega, come si diceva una volta, imparare a usare le mani? È uno dei temi di cui parleremo in questa puntata della finestra sul cortile, ma parleremo anche del rapporto curioso tra matematica e cinema in alcuni famosi film. Ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il menù di oggi. Svizzera, troppa teoria e poca pratica. La scuola deve riscoprire l'importanza dell'apprendistato. Isole Fiji. Di gran moda l'acqua minerale prodotta sulle isole del Pacifico, che peraltro soffrono la siccità. Russia. Cremlino in allarme. Dall'Ucraina all'Estonia, negli ex stati satelliti si parla sempre meno la lingua degli zar. America. Matematica e cinema. Le teorie che si nascondono dietro le trame dei film. Germania. Divertirsi a fracassare le automobili con un Panzer. Un ex soldato insegna come guidare un carro armato. Il misterioso equilibrio degli zombie e altre cose che i matematici vedono al cinema è il curioso titolo di un articolo di Samuel Arbesman sul Boston Globe, che parla di rapporti tra il cinema e la matematica. Apparentemente così queste due discipline sono molto lontane, tant'è vero che ci sono ben pochi film che hanno come protagonista un matematico o in cui la matematica gioca un ruolo importante. Ne possiamo ricordare di recenti almeno due, cioè La prova, quello con Gwyneth Paltrow, con il padre matematico impazzito, e Beautiful Mind, che sulla vita di John Nash. Ma a parte questi casi, ci sono molti film su altri temi che in realtà racchiudono o nascondono un problema matematico che di solito allo spettatore comune sfugge, e soltanto chi ha dimestichezza con la scienza dei numeri può afferrare. Per esempio, in una scena del film di Harry Potter e il Principe Mezzosangue, si vede il Millennium Bridge, il ponte pedonale nel centro di Londra, che viene distrutto in maniera così spettacolare, e mentre uno spettatore normale non si accorgerà di nulla, un matematico potrebbe, o comunque un ingegnere, un tecnico, potrebbe un po' infastidirsi, perché mentre crolla il ponte si muove su e giù, mentre invece il problema vero del Millennium Bridge è che i tecnici stanno cercando di risolvere è un'oscillazione invece laterale, che pare che sia dovuta al fatto che le persone in qualche maniera sincronizzano il loro passo, e tutti questi passi così tutti assieme determinano questa oscillazione. E poi c'è un altro esempio che fa Arbesman, è quello delle scene finali del Cavaliere Oscuro di Batman, in cui il Joker pone un terribile dilemma ai passeggeri di due traghetti: o far saltare l'altra barca e salvare se stessi, oppure saltare in aria loro stessi. E se nessuno decide entro un certo limite, un certo termine di tempo tutte e due le barche esploderanno e verranno distrutte. Questo è il famoso dilemma del prigioniero, magari ne torneremo dopo con il nostro ospite. E poi c'è addirittura, e questo dà il titolo a tutto l'articolo, un'esercitazione, uno studio che ha fatto un studioso della Carleton University, Philip Munz, il quale ha provato a calcolare quale potrebbe essere il modo per contenere una epidemia dovuta ai morsi degli zombie. Ovviamente un'esercitazione piuttosto bizzarra, perché lì, a differenza di tutte le altre pandemie, il vero problema è che la fonte dell'infezione, il morto, può ritornare in vita e continuare a fare danni, quindi chiaramente pone un problema matematico molto molto particolare, di difficile soluzione. Ma intanto salutiamo il nostro ospite Pier Giorgio Odifreddi, benvenuto alla Finestra sul Cortile. Ci conosciamo da tempo con Pier Giorgio, ci diamo del tu. Ecco, Pier Giorgio, quando vai al cinema, tu ti siedi lì e ti guardi il film tranquillamente o continui a fare il matematico anche nelle ore libere? Ma dipende, a volte ci vado apposta per vedere le parti matematiche, quindi in quel caso non mi dimetto, diciamo così, dal mio ruolo. Per esempio, uno dei film che hai citato tu, anzi i due che hai citato agli inizi, Proof da una parte, Beautiful Mind dall'altra, beh, lì uno ci va proprio perché finalmente si vede la matematica direttamente sullo schermo. Tra l'altro il film di Gwyneth Paltrow è bellissimo e in qualche modo riesce effettivamente... Beh, bellissima anche lei soprattutto. Sì, beh, certo, anche lei, questo aiuta, ma riesce comunque a trasmettere anche struggersi, ecco, del matematico durante il suo lavoro, la difficoltà anche del pensiero e così via. Il film di su Nash, Beautiful Mind, lì invece struggersi è proprio un caso di pazzia, di schizofrenia. Beh, tu lo conosci bene Nash, insomma, no? Lo hai intervistato? È venuto tutte e tre le volte al Festival di Matematica che si teneva all'Auditorium di Roma, è diventato un po' la nostra mascotte, per così dire. Il Nash di oggi è molto diverso da quello del film. Ecco, per esempio, con lui avevamo parlato, io gli avevo chiesto, ma il fatto che nel film si faccia vedere che lui ha delle visioni, che vede questo uomo, no, diciamo così, nella sua camera, no? Mentre invece lui la schizofrenia l'aveva uditiva, cioè sentiva delle voci. Però anche lui ha confermato, dice, ma in fondo nel film la cosa importante è di riuscire a trasmettere, diciamo così, quello che si vuole trasmettere. Sarebbe molto difficile far sentire soltanto delle voci, invece quello era un modo particolarmente interessante. Hai ragione a dire che spesso ci si sbaglia quando si va al film, si vedono delle cose che non sono proprio perfettamente corrette, ma anche senza arrivare alla sofisticazione del ponte, che in fondo è una cosa già abbastanza complicata. Io mi accorgo ad esempio spesso che nei film in cui ci sono scene su una macchina e sta piovendo, la macchina sta andando avanti e quindi le gocce, per esempio, sul finestrino dovrebbero essere inclinate, no? Certo. A seconda della velocità, invece vanno sempre diritte perché ovviamente la macchina è ferma nello studio, eccetera. Quindi ecco, è divertente andare a cercare questi aspetti, diciamo così, vedere se ci sono degli errori. Ecco, ma parliamo un attimo del dilemma posto dal Joker nell'ultima scena del Cavaliere Oscuro, no? Ecco, sì, questo è il famoso dilemma del prigioniero, ma certo. Qui c'è una variante però un po' particolare, cioè il fatto che poi può intervenire Batman e risolvere la questione in maniera diversa. Qualcuno può liberare esatto. Il prigioniero, però forse possiamo spiegare com'è questo dilemma del prigioniero, anche perché lo si può spiegare in maniera molto semplice. Ad esempio nella compravendita per corrispondenza, uno pensa, ad esempio io voglio comprare qualche cosa per corrispondenza, naturalmente a me conviene non pagare, no? Perché i casi sono soltanto due: o la merce non me la mandano e allora sarei proprio sciocco a pagare, ma se invece me la mandano sono molto furbo a non pagare perché mi prendo la merce e non pago. Dall'altra parte, coloro che invece vogliono vendere la propria merce devono fare un ragionamento assolutamente identico, no? Cioè di dire, ma noi la merce non la mandiamo, perché se quelli non ci mandano i soldi ovviamente ci perdiamo la merce che gli abbiamo mandato, e se ci mandano i soldi è molto meglio, ci prendiamo i soldi e non gli mandiamo la merce, no? E questo è un ragionamento dal punto di vista logico perfettamente corretto, che tutti e due fanno, sia il venditore che il compratore. Sì. che dice al venditore non mandare la merce, al compratore non mandare i soldi e naturalmente il business è finito. Ecco, questo è un caso in cui la razionalità ci propone dei comportamenti che in economia si chiamano dominanti, cioè per il quale non ci sono vie d'uscita, bisogna fare così, e che però vanno contro gli interessi di tutti e due, certo, perché l'interesse del venditore vendere è quello del compratore comprare, no? Certo, è logico. Bene, grazie Audi Freddi e a presto. Diamine, grazie a voi, arrivederci. La lingua degli zar batte in ritirata, lo dice Clifford Levy sul New York Times. L'inviato del giornale americano è andato in Ucraina e ha scoperto che nelle librerie, nelle scuole di questo paese circolano libri da Oscar Wilde a Victor Hugo a Mark Twain a Shakespeare non più tradotti in russo ma in ucraino, e questo problema si pone in tutti gli stati delle ex repubbliche sovietiche ma anche negli stati satelliti dell'URSS che ormai fanno ricorso alla lingua nazionale sempre meno al russo. Questo problema si pone per un paese ex imperiale come la Russia, non certo per l'Italia che da tempo ha smesso di opprimere altri popoli. In compenso ci facciamo del male da soli, perché presto forse avremo i Promessi Sposi e la Divina Commedia tradotti in brianzolo e in trevigiano. Purissima, levissima, lontanissima. L'acqua minerale più in voga negli Stati Uniti, che ormai ha surclassato la Evian, è l'acqua delle isole Figi, e un'inviata di Mother Jones, una rivista americana, Anna Lenzer, è andata sul posto per rendersi conto di come funzioni questo business, e ha scoperto, oltre al fatto già noto che le isole Figi sono governate da un regime militare brutale e oppressivo, anche che in queste isole ci sono continui problemi di scarsità d'acqua e di siccità che si aggravano con il riscaldamento globale. Evidentemente gli snob americani sono preoccupati dell'emergenza clima, ma non quando sono a tavola. La finestra sul cortile. Ragazzi, ritornate a bottega, fate gli apprendisti, imparate un mestiere. È l'appello che rivolge agli studenti svizzeri il pedagogista Rolf Dubs, docente all'Università di San Gallo, in un articolo sulla Neue Zürcher Zeitung, anzi per la precisione sul magazine Folio della Neue Zürcher Zeitung, che è interamente dedicato proprio al tema dell'apprendistato. La Svizzera è, insieme alla Germania, uno dei paesi che hanno la più radicata e più importante tradizione di scuole professionali e anche di educazione, per così dire, duale, cioè col doppio binario, insomma, della pratica sul posto del lavoro e della teoria a scuola. Eppure, secondo il professor Rolf Dubs, questa tradizione incomincia un po' a sfilacciarsi, e anche l'università svizzera si fa troppo influenzare dal modello americano, per cui si pratica più, diciamo, la teoria che non l'esperienza, e a chi vuole fare carriera accademica deve soprattutto pubblicare articoli in buone in riviste qualificate per aumentare le possibilità di diventare professore. Ma quello che è un po' il problema della Svizzera, ma non solo della Svizzera, è che ci sono dei forti squilibri sul mercato del lavoro, per cui ci sono forse troppi avvocati o medici, e invece c'è una forte carenza di ingegneri e di lavoratori qualificati. Purtroppo il prestigio anche in Svizzera è legato più a alcune professioni. Per esempio ci sono tantissimi studenti che si iscrivono alla facoltà di psicologia o alla facoltà di legge, e invece le professioni manuali o l'artigianato vengono considerate così dequalificanti, quasi una deminuzio, e questo vale, purtroppo lo sappiamo, anche nel nostro paese. Nel questo numero del magazine della Neue Zürcher Zeitung poi vengono intervistati alcuni ragazzi che invece hanno scelto proprio di fare l'apprendistato presso un artigiano o presso una piccola azienda, per esempio ci sono degli apprendisti nel campo della sartoria o della moda o nel campo degli orologiai o addirittura dei cantieri navali, e tutti quanti si dichiarano soddisfatti di questa loro esperienza. Quindi dopo tutto non è così avvilente fare un lavoro manuale, tant'è vero che addirittura un sociologo americano, Richard Sennett, ha appena pubblicato un libro, L'uomo artigiano, in cui sostiene che dalla grande crisi forse emergerà una rivalutazione proprio dell'artigianato. Ma intanto ci ha raggiunto al telefono l'ospite che salutiamo, al quale diamo il benvenuto, il professor Roberto Perotti. Benvenuto alla Finestra sul Cortile. Grazie. Il professor Perotti, straordinario di economia politica all'Università Bocconi, autore di un libro che ha fatto molto discutere, L'Università truccata, pubblicato da Einaudi, nel quale denuncia i mali dei nostri atenei, soprattutto l'eccesso di nepotismo, la mancanza di meritocrazia e il fatto che l'università non favorisce la mobilità sociale. Quindi, professore, questa analisi di Dubs non l'avrà accolta impreparato, cioè i mali dell'Italia forse non sono soltanto italiani. Sì, diciamo l'argomento, l'impressione che sia molto complesso, però la mia impressione è che ci sia un po' di confusione tra università e scuola superiore e tra insegnamento e ricerca. Ecco, ci aiuti a chiarire insomma questa distinzione insomma, che è molto importante. Se l'argomento è, una prima parte dell'argomento del professore è che per esempio nelle università americane c'è troppa teoria, perché per fare carriera i professori devono pubblicare in determinate riviste. Publish or perish, insomma. Esatto, questo può essere vero, ma questo non è assolutamente incompatibile con un insegnamento all'interno dell'università verso gli aspetti più pratici. Per esempio nel mio campo, in scienze politiche, le università americane sono piene di public policy schools che preparano esattamente i governanti degli enti locali, persone che devono andare a lavorare in organizzazioni internazionali o nel volontariato. Certo. Quindi le due cose non sono incompatibili, non vedo esattamente la connessione. Poi c'è l'aspetto della scuola superiore. Qui io devo dire che non ho un'opinione precisa, cioè c'è questa eterna diatriba tra la preparazione generale e invece un sistema che si mette a due velocità, in cui vi sia spazio, più spazio per le scuole professionali essenzialmente. Certo. E qui ci sono pro e contro. Il contro insomma è quello che è stato sollevato fin dagli anni 60, cioè che le scuole professionali spesso diventano poi dei ghetti in cui incanalare persone che poi si ritrovano senza molte atù nella vita, diciamo. È stata la ragione per cui è stato abolito l'avviamento professionale che c'era da noi fino agli anni 60, no? È stata una riforma della media unica. E questo devo dire che non è un argomento privo di fondamento, secondo me. Detto questo, ci sono anche argomenti ovvi a favore delle scuole professionali, però diciamo quest'idea che tutti vogliono fare l'avvocato, lo psicologo e nessuno vuole più fare l'artigiano, secondo me questa va un po' ridimensionata, intanto perché di artigiani ce n'è meno bisogno, perché tante cose che prima facevano gli artigiani adesso le compriamo ai supermercati, che ci piacciono o no, voglio dire, però questa è la realtà, e tutto sommato non ce ne lamentiamo perché costa meno e ci va bene così. E poi perché insomma è inutile negarlo, nella maggior parte dei casi un avvocato guadagna di più e da un certo punto di vista insomma ha una posizione sociale, comunque la si voglia definire, un prestigio maggiore. Quindi insomma noi vogliamo fare gli avvocati, ma vorremmo sempre che gli altri facessero gli artigiani, e questo insomma c'è qualcosa che non va in questo. Poi ovviamente c'è sempre il caso, i famosi casi dei piastrellisti che non si trovano più, che guadagnano tanti soldi, e quindi lì uno è libero di fare il piastrellista e di decidere di guadagnare tanti soldi. O l'idraulico polacco, no? Cioè, la famosa, ecco, che poi lo dobbiamo importare dall'estero. Certamente rimane il fatto che forse appunto ogni tanto delle parentesi o delle esperienze di lavoro manuale sarebbero opportune, perché ci sono gran parte dei nostri studenti che arrivano alla laurea senza sapere, che ne so, come si monta una spina elettrica, ecco, che forse è una cosa utile da fare, insomma. Sì, questo diciamo era un po' il compito delle famose applicazioni tecniche della scuola media, che sotto altri nomi ci sono ancora, però insomma non ne farei un caso, un problema eccessivo, insomma. Secondo me il punto è che gli artigiani di fatto ne abbiamo meno bisogno, la società ne ha meno bisogno, e ci sono dei lavori d'artigiano che rendono molto, e secondo me il mercato si preoccupa abbastanza bene di indirizzare la gente verso queste professioni. Io ringrazio il professor Perotti, alla prossima allora, grazie. Grazie, arrivederci. E ci spostiamo in Germania, per la precisione nella regione del Brandeburgo, vicino al confine con la Polonia, dove sono stati avvistati dei mezzi cingolati guidati da soldati tedeschi. Ma niente paura, è solo per gioco. Si tratta della scuola di Panzer di Axel Heise, un soldato carrista che per 10 anni servì nell'armata nazionale della Germania Est. Dopo il crollo del muro e la scomparsa del nemico di classe, per lui arrivò il congedo forzato, ma insieme al bisogno giunse anche un'idea che gli portò fortuna: tornare a far ruggire i carri armati, questa volta per divertimento. Oggi Panzerfahnenschule, sua e di suo fratello, ha in garage 13 Panzer sovietici e cecoslovacchi in grado di rombare, abbattere muri e schiacciare auto come sardine. Nulla a che fare, tuttavia, con l'esaltazione della guerra. La scuola di Axel, che attira allievi da ogni parte del mondo, è soprattutto un'opportunità turistica e lavorativa per una regione molto povera come il Brandeburgo, dove bisogna sì fare la guerra, ma la disoccupazione. E per oggi è tutto. Ringrazio Daniele Casagrande e Vittoria Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento sabato prossimo, stessa ora.